minimo mucchio in area di rigore, attenzione. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Champions è un sogno, essere arrivati o arrivare a giocare una finale credo che sia, era un sogno all'inizio e un sogno tuttora, e quindi come importanza di obiettivi è normale che la Champions ora diventa il primo, ma al momento è il terzo, perché innanzitutto perché viene giocata per l'ultimo e poi soprattutto perché il primo obiettivo era quello del scudetto e il secondo era quello della Coppa Italia. La Champions credo che nessuno pensava che arrivassimo a Berlino. No, Antonio mi ha mandato un messaggio dopo la vittoria del campionato. Avete uno scoop, siete tutti contenti. Grande. Ah, calcio italiano, io sono molto dispiaciuto, ma ero altrettanto convinto, purtroppo mi sono sbagliato, che perlomeno una delle due potesse arrivare in finale, soprattutto dopo il risultato dell'andata. Credo che il Napoli avesse la possibilità di arrivare in finale. La Fiorentina era più difficile ribaltare un risultato del genere. Però il calcio italiano quest'anno esce, direi, vittorioso a livello europeo, perché ha portato tre squadre, di cui due in semifinale e una in finale di Champions, e due in semifinale di Europa League. Io credo che non è tutto da buttare. Massimiliano Allegri oggi è tornato a parlare alla vigilia di Inter-Juventus che si gioca domani alle 18 e ha detto, tra le altre cose, non l'avete sentito ma ve lo dico io: Tevez, Pirlo, Buffone e Evra, Vidal stanno a casa in freezer, non vanno a giocare a San Siro. Juve B dunque per la sfida di domani. Giorgio De Luca, il nostro dottore, Gianmarco Ferronato in regia, Pierluigi Pardo, ciao. Come va? Bene. Tutto bene? Fammi un bel saluto a modo tuo a Daniele Bonamici oggi per l'ultimo giorno. Beh, grande, un mito. Un mito, lo riaspettiamo prestissimo. Esatto, convocato per sempre, capito? Ad onore. Quindi siamo qui a braccia aperte. Convocato per sempre. Senti, però chiamiamola se vuoi delusione. Dopo ieri sera ti avevo chiesto di portarmi a Varsavia. Non chiamiamola tragedia, non delusione. Tragedia, addirittura. Beh, sì. Come svegliarsi male dopo la sbornia di Madrid? O peggio? Sì, è stata veramente, per quanto riguarda il Napoli, una delusione. Sono state due delusioni diverse, ma entrambe pesantissime. Quella della Fiorentina, perché ci avevamo fatto il senso di impotenza, no? Sì. Chiaro che la Fiorentina lo sapevamo che non ce l'avrebbe fatta, ma però 5-0 è tanta roba. Ecco, appunto. E per quanto riguarda il Napoli è qualcosa di clamoroso. Insomma, il Napoli è uscito con una squadra nettamente inferiore, dilapidando una quantità industriale di occasioni, veramente industriale, che secondo me porta in qualche modo Higuaín sul banco degli imputati, per quanto possa esserlo un giocatore da 27 gol stagionali, un grandissimo attaccante, però in queste due partite questo attaccante eccezionale non si è visto, e sicuramente le sue occasioni fallite, che sono state 5 o 6 clamorose fra andata e ritorno, hanno fatto i risultati. Poi ci sono gli episodi arbitrali, ma da questo punto di vista secondo me Benitez va bene. Sì, li lascerei stare per decoro, ho capito? Cioè, li lascerei stare, ma anche per non fornire alibi che possono essere troppo facili. Allora, sentiamo, prima del traffico, Benitez e Montella, subito dopo torniamo anche con voi e con i nostri ospiti e con Pierluigi Pardo, 800 24 00 24. Credo che nelle due partite abbiamo creato sufficiente per fare gol. Anche oggi il primo tempo abbiamo avuto qualche occasione netta, e dopo il secondo tempo è stato un assedio quando hanno fatto il gol. Mi dispiace per la maniera che l'hanno fatto, e dopo tante occasioni, tanto controllo, dico che credo che abbiamo potuto fare gol e chiaramente cambiava tutto. Io credo veramente che si può esprimere il proprio parere. Secondo me la squadra, per come ha giocato anche questa annata, in questo percorso, per come si impegna, per quello che ha fatto, non meritasse fischi. Fermo restando che chi paga il biglietto lo può fare, fermo restando che chi sta ad ascoltarli può dire come la pensa. Io non penso che la squadra non lo meriti, io penso anche che qualche calciatore importante lo perdonerà dopo questa sera, e penso che, ripeto, che si meritassero più, o si meritano più rispetto. Torniamo da Nando Sanvito. tutti convocati. Tutti convocati. A distanza di ore è normale che abbiamo raggiunto un traguardo importante, un traguardo straordinario che capita raramente nella carriera di un giocatore, di un allenatore, raggiungere e arrivarci. Poi qualcuno magari ci arriva più volte, però insomma credo che sia un traguardo innanzitutto perché è un traguardo che all'inizio nessuno si aspettava e quindi era impensabile. Però ci siamo arrivati con merito, giocando anche una grande partita a Madrid, e soprattutto ci siamo arrivati attraverso una crescita costante e graduale di tutta la squadra. Di nuovo Allegri di oggi ha parlato poco fa. Non potevamo, Pierluigi Pardo, chiudere questa Eurosettimana senza sentire Paolo Condò, la Gazzetta dello Sport. Ciao Paolo. Ciao ragazzi, ciao Carlo, ciao Pier. Eccomi qui. Allora, a guardarla in modo asettico. Una finale di Champions, due semifinaliste di Europa League, certo non siamo da buttare. No, è stata l'annata della riscossa, questa, chiamiamola così. Non è ancora conclusa la rinascita del nostro calcio, però intanto, partendo dall'Europa League, l'abbiamo affrontata seriamente, sì, finalmente, perché ero proprio, non ne potevo più di questi discorsi degli allenatori che gli anni scorsi mandavano in campo in Europa League le seconde squadre dicendo mi ha sempre fatto impazzire questa cosa, dicendo dobbiamo conservare la squadra per il campionato perché stiamo inseguendo l'Europa League. Sì, certo. Poi ci arrivi, questo. Fai giochi come la Coppa Italia, esatto. Però intanto la insegui esatto. È il cane si morde la coda. No? Sì. È bastato che le nostre formazioni l'affrontassero seriamente per tornare a metterne due in semifinale. Poi le semifinali sono andate male. E ci sono delle colpe, ci sono delle sfighe, ci sono degli errori arbitrali, insomma tutta una serie di cose che tecnici, possono capitare, sì. Appunto dico, ci sono delle colpe, delle sfighe, degli errori arbitrali, sì. c'è stato tutto questo, però comunque due squadre in semifinale le portate hai dato una buona dimostrazione. E la Juventus ha finalmente esportato in Europa il vantaggio che ha sulle altre squadre italiane, certo. Perché in questi anni c'era una contraddizione, no? Fra la facilità con la quale vinceva i campionati e quanto presto si fermava in Europa. Sì, quest'anno secondo me è stato molto importante Allegri per questo. Mm-hmm. Quest'anno è riuscita a annullare questa discrepanza. Ora è molto forte in Italia ed è anche bella forte in Europa. Sì, Pierluigi, posso chiederti una curiosità mia? Sì. Allora, ieri sera eri a Chieva e hai raccontato la, come l'ha chiamata? Non era delusione, la tragedia. Tragedia, no, la vabbè, adesso sportiva, no, ma chiaro, no, però raccontami invece la notte di Kiev, perché è anche vero il rovescio della medaglia, cioè il Dnipropetrovsk in finale di Europa League non se l'aspettava neanche Platini, però per quella gente è stato qualcosa di grande, credo. No, è una bella, bellissima storia di sport. Peccato che alla fine della partita ci sia stata questa invasione che soltanto grazie alla tempestività della polizia ucraina non ha portato a dei guai grossi, grossissimi. Perché guarda, credimi, ho parlato sia con quei ragazzi che erano nel settore del Napoli, sia con uno dei responsabili di UEFA della stampa. Quello è uno stadio molto bello che conosciamo bene, che ci ricorda Spagna-Italia, ma anche Italia-Inghilterra con la vittoria di rigori durante il Mondiale, durante l'Europeo 2012. È uno stadio che apre tutto il dibattito sugli stadi senza barriere, nel senso che è fantastico perché appunto che bello lo stadio senza barriere, però poi se hai praticamente 30.000 persone ultra, nel senso, non tutti gli ultra ovviamente si comportano male, ma diciamo nel senso deteriore del termine, pronti a fare di tutto, uno stadio come quello crea problemi. E ti posso dire che in maniera assolutamente informale, para amigos, non ufficiale, ma uno dei delegati UEFA mi diceva che una partita del genere in uno stadio così non si può giocare, non si deve giocare. Quello è uno stadio per una finale europea, è uno stadio per un concerto rock, per dell'Atletica Leggera, per la finale dell'Europeo, ma non può essere una finale per tifoserie, gruppi organizzati e cose del genere. Quindi è stato questo molto, e devo dire che è stata brava la polizia, era quello che ho visto, che con grande decisione, nel momento nel quale questi qui stavano arrivando sotto il settore dei 300 tifosi del Napoli, visto. si è messa in mezzo, si è messa in mezzo e ha evitato, guai peggiori dal punto di vista, simbolico. Insomma, è chiaro, siamo in una regione che è a un passo dalla guerra, non è Dnipropetrovsk, non è Donetsk, quindi non è così grave la situazione, ma siamo veramente al confine con la guerra, con una povertà che si è fatta pesante negli ultimi anni, con un'instabilità politica mostruosa. È chiaro che insomma questa vittoria dal punto di vista simbolico è qualcosa di straordinario. Certo. Devo dire la verità, insomma, dal loro punto di vista hanno fatto bene. Hanno fatto due partite tatticamente e fisicamente perfette. Io vorrei con te, Pierluigi, e con Paolo Condò aprire una mini discussione sulla base di queste parole di Arrigo Sacchi. Tornato il sole, grazie alla Juventus, sul calcio italiano, dopo anni bui, erano 5 anni che non arrivavamo neanche in quarti, in poche parole. L'ultima volta che abbiamo vinto una Coppa dei Campioni è stata con l'Inter, dove non c'era neanche un italiano. Questa è assolutamente, a parer mio, una vergogna. Scandaloso. Purtroppo, qui pur di vincere, venderemmo l'anima al diavolo. In tutti i paesi del mondo, se non giocano dei ragazzi di quel paese, anche a Real Madrid, che ha i giocatori più bravi, più famosi almeno del mondo, vogliono degli spagnoli, però non ce ne fregano, e questo però non è positivo. Basta vincere, allora vinciamo come sappiamo fare. Siccome se mi auguro che la Juventus invece non lo faccia, che vinca giocando da protagonista. Allora, l'Inter che vinse nel 2010, neanche un italiano, una vergogna. Io ho fatto i conti così al volo, ma magari, professore, mi correggerete se sbaglio. Allora, nel Barcellona l'altro giorno c'erano 4 spagnoli, nel Real Madrid 4 spagnoli, nel Bayern 5 tedeschi, compreso Boateng, nella Juventus 5 italiani. Quindi tutte queste mi sembrano polemiche un po' pretestuose, se posso dire. Paolo? No, ma lui ha detto che si augura che la Juventus giochi da protagonista, ma che rispetto all'Inter che vinse senza italiani la Champions del 2010 è un passo avanti. Insomma, mi sembra di aver colto questa cosa in quello che diceva Sacchi. Ora io non parlo di vergogne, perché quando i regolamenti ti permettono una cosa, ognuno ragiona in base ai propri desideri. Però io sono favorevole a questo tipo di squadre. Sì, a ma anche tipo perché di squadre che siano più o meno metà e metà tra grandi giocatori stranieri e prodotti dei vivai. Anche locali. Perché normalmente vincono quelle che hanno una spina dorsale autoctona. Però non mi sembra che nel Real Madrid, nel Barcellona e nello stesso Bayern Monaco, con il calcio tedesco che tutti guardiamo prostrandoci giustamente, non mi sembra che lì ci siano soltanto spagnoli o soltanto tedeschi, quindi sono conti molto facili da fare. Guarda, io mi ricordo che c'era stata, se non sbaglio, era di Veltron all'epoca, quando era vice primo ministro, che lui aveva proposto, ma posso sbagliarmi, però mi pare che fosse sua, che lui aveva proposto di fare 6 giocatori stranieri e un minimo di 5 italiani per squadra, e la cosa era stata bocciata dal Consiglio europeo, da chi si occupa di queste cose, perché diceva che comunque era una cosa che andava contro la legge sul lavoro comunitario. E io ero favorevole a questa proposta, perché appunto a me piace il calcio, come sono contrario, e l'ho sempre detto, sono contrario agli oriundi nelle nazionali, perché secondo me non ha senso, perché poi se noi andiamo a cercare il parente così, immagina che cosa fanno in altri paesi, per esempio dovranno presto organizzare i mondiali, e per essere competitivi andranno sicuramente a fare una campagna di reclutamento, ecco. Così per i club a me piacerebbe un mix, un mezzo e mezzo più o meno. Pierluigi? Sì, insomma, diciamo che qui ci sono due temi cari, storici di Arrigo Sacchi. Da un lato il tema del come vincere, e quindi del gioco, e questo è un tema sul quale Sacchi insiste moltissimo, l'orchestra, no? Tutto il discorso sulla stracondivisibile, per carità. Sì, sì. E poi c'è questo tema, sappiamo che già una volta gli era un po' partita la frizione, devo dire la verità, in maniera anche poi un po' strumentalizzata dalla da un certo tipo di stampa, conoscendo il personaggio che tutto è meno che razzista, ricorderete la famosa battuta, ricordiamo. Che sono i numeri che dicono che la Juventus ha una spina dorsale italiana, però poi va a vedere Barcellona 4, Real Madrid 4, Bayern Monaco 5 giocatori spagnoli o tedeschi. Tra l'altro ti dico che occhio e croce, ma le inglesi che quest'anno non sono arrivate in semifinale, ma che negli anni spesso hanno dominato, secondo me hanno anche meno giocatori locali, nel senso che appunto il Barcellona in questi anni ha avuto una grande forza legata alla cantera, al Real Madrid, alcuni giocatori appunto come Casillas, come Sergio Ramos, alcuni giocatori iconici come quelli che può avere la Juve, ma per esempio il Chelsea e il Manchester United andiamo in questi contarli? Anni hanno avuto pochi, no? Giocatori prettamente inglesi. Capello si lamentava sempre quando era CT, non ho giocatori, capito? Quindi e la Premier League, mi ricordo, le cifre erano quelle del campionato in assoluto con più stranieri rispetto anche a quello italiano, quindi in assoluto io sono d'accordo con quello che dice Paolo, cioè, a parità di risultati non c'è nessun dubbio, è bello che la Juve, a parte il fatto che posso dire per me è anche proprio una soddisfazione perché li conosco io questi ragazzi, certo, Barzagli, Chiellini, Buffon, quindi mi fa anche proprio piacere umanamente, è gente che a Berlino c'è stata un'altra volta, è gente che a Berlino in alcuni te casi, ricordi c'è... magari c'è anche questo piacere di vedere questa generazione di calciatori italiani, probabilmente alcuni di loro all'ultima chiamata per una cosa del genere, no? Chiaro, Pirlo stesso, Barzagli è un segnale secondo me di crescita, poi in realtà è un segnale relativo perché poi in realtà è molto la classe degli anziani, no? Che sta portando avanti, perché poi comunque alla fine sono Pirlo, Buffon, sono questi giocatori qui, però ci sono anche giocatori invece nel pieno della loro maturità come Marchisio, ci sono dei giovani sui quali la Juve ha dimostrato già di sapersi muovere bene come Sturaro, quindi insomma sicuramente io credo che una delle lezioni di questa Juve qui è che a parità, ripeto, gli italiani si danno dei vantaggi, perché hanno un senso di appartenenza, che al di là dell'Inter del triplete le grandi squadre italiane vincenti avevano comunque una spina dorsale italiana, e questo va, il discorso è applicabile anche alle grandi squadre, alle grandi dinastie degli altri paesi. Un'ultima cosa per Paolo Condò, si leggeva Suarez contro Turina, e il popolo bianconero già sogghigna. Spero sarà da darmi pari. Anch'io spero che sia con tutti presenti, perché innanzitutto mi aspetto una bella finale vista la qualità degli interpreti. E il Suarez lo lasciano a riposo, ma appunto in questa partita di campionato contro l'Atletico, anche perché il Calderon è una situazione abbastanza calda e quindi magari la botta ci può scappare. Sì. Però Suarez sarà della partita e sono sicuro che quello contro Evra e contro Chiellini sarà un duello estremamente acceso ma pulito, sono sicuro che sarà pulito e estremamente gustoso. Bravo. Ciao Paolo. Appuntito. Ciao Paolo Condò. Ciao Carlo. Ciao. Ci vediamo per la borsa, poi torniamo subito, io parliamo con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde. Prima svolta della partita, ancora lunga però. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. Io posso solo cantare una canzone, se la ricordi quella che fa? Non aver paura, non sarai più sola. Poi fa, Sandoria, t'amo. Amo. Di Pardo potremmo parlare anche d'amore, siamo al top, siamo top veramente Ferreira, al top. Tra l'altro sei tornato al Foro Italico, giusto? Sto andando. Sai che Fognini e Pennetta si sposano, quindi. Ah sì? Sì, ma così dicono i loro genitori, convoleranno a giuste nozze, poi vediamo. Sono contento. Pognini litigherà, secondo me, litigherà col parroco. Sì, e gli tira la racchetta in testa, sì, vabbè, queste sono cose che scopriremo vivendo. Roberto Parma, buongiorno. Buongiorno, salve, grazie per la convocazione. Dica. Ma non vi ha proprio stufato, Sacchi? A me mi ha riempito. Ha vinto quando aveva Gullit, Van Basten e Rijkaard. Quando ha avuto la nazionale più forte di tutti i tempi, ha perso in una maniera, con i rigori, il caldo. Quella, no, beh, io non sono che... così, no, Roberto, non sono così d'accordo sulla nazionale più forte di tutti i tempi, ma rischieremo di aprire un discorso epocale. Ha poi perso un mondiale ai rigori. Ha perso un mondiale ai rigori. Ha pareggiato una finale dei mondiali, dai, adesso. Col Brasile, sì. Esatto, poi... no, ha perso la finale dei mondiali potendola vincere, cioè non... aveva tutti italiani, era tutto... lui. No, non può sindacare su parte di degli stranieri o per gli italiani eccetera eccetera, non può, perché lui ha vinto solo con degli stranieri in campo, tre ed erano straordinari, però per ragioni anche temporali la colonna portante del Milan era costituita da Franco Baresi. Vi faccio la formazione, non mi sembra il caso, però erano altri tempi, verrebbe da dire. Sì, banalmente posso raccontarvi testimonianza del mio amico Marco Foroni, la prima della finale di Champions, c'era Carragher in albergo, quando Carragher ha visto Sacchi è impazzito e poi il giorno dopo ha twittato, è stato un... Sacchi è un guru del calcio mondiale, voglio dire, ha questo ruolo riconosciuto di essere uno di quei maestri che hanno cambiato questo gioco per sempre, e quindi questo è, poi in assoluto poi voglio recepire, diciamo, la parte di interessante, no, nel ragionamento, sicuramente ha 3-4 temi che sono quelli sui quali insiste molto, e quindi poi insomma, la famosa orchestra, il fatto che bisogna vincere cercando la bellezza del gioco, il gioco collettivo, non affidarsi ai singoli, tutto questo insieme di temi, lo stesso discorso appunto sull'italianità, che è un tema che gli sta molto caro, insomma, ecco, questo si può anche dissentire, però ecco, sul valore del guru, oltre che per quello che è la mia esperienza, ma sa che è stato rivoluzionario, anche della persona, è stato rivoluzionario, un visionario, eccetera. Questo gioco, dai. Sicuramente io però non sono così in disaccordo con l'ascoltatore, perché insomma il calcio moderno è questo, ma ne abbiamo parlato prima, andiamo a contare quanti autoctoni giocano nelle grandi squadre europee oggi. Poi è chiaro che quelle che arrivano lì sono quelle che hanno comunque una colonna vertebrale di giocatori autoctoni. Questo vale per le spagnole, vale per il Bayern e vale per la Juventus. Davide, Napoli. Salve, buongiorno a tutti, grazie per la convocazione. La delusione è tanta, tristezza, però devo dire che Napoli alla fine non ha subito gol regolari, poi i gol sbagliati da Higuain potevano essere anche 30. Diciamo che ai punti Napoli ha meritato di perdere. Bastavano un paio. 30 ne bastavano un paio. Non ha subito gol regolari in Napoli. No? La partita per me è finita 1-0 in Napoli, la doppia sfida. La Moviola in campo almeno per il fuorigioco, questo chiediamo. E poi se avessero fischiato il rigore di Evra sull'attaccante di Cicciarito, sì, però Davide, guardi, io trovo sbagliato cercare questo tipo di alibi, così come ho trovato sbagliate e deleterie le parole di Laurentiis dopo la partita di andata, e nessuno mi fa cambiare idea. Cioè il Napoli ha perso perché ieri sera non è riuscito a segnare, perché ha giocato una pessima partita ieri, così come nella gara di andata. Tanto per fare il paragone con la Juve, non per mettere il dito nella piaga, però la Juve, ovviamente per l'ascoltatore che è azzurro di cuore e d'animo, la Juve prende un calcio di rigore, ci sta, per una sciocchezza di Chiellini, un'imprudenza di Chiellini, quindi un episodio che teoricamente ti può destabilizzare, va sotto 1-0 e continua a giocare con atteggiamento da grande squadra in uno stadio come il Bernabeu con 90.000 tifosi, certo, contro. Certo. Il Napoli ieri doveva scendere in campo, l'abbiamo detto mille volte questa stagione, anche in campionato a Parma, a Empoli, con un atteggiamento diverso, e la verità è questa. Poi sicuramente non è stato favorito dagli episodi, ma non è la ragione, quelli arbitrati che quelli poi specifici, nel senso che io Higuain che si mangia 6 palle gol così tra andata e ritorno non l'ho mai visto che fa 0 su 6 su una roba del genere, quindi stiamo parlando di una congiunzione astrale particolarmente sfigata. Però poi ci sono anche le responsabilità, poi si può anche discutere su Zapata, che poteva essere utile sul terreno così pesante, sì, almeno avercelo in panchina, bravo, un quarto d'ora, no? Poteva essere molto più utile in panchina che non in tribuna dove un stato allenatore mandato. Alla fine, un allenatore, io venite, ti voglio bene, lo sapete, cioè, mi è simpatico e mi piace da morire per quello che è successo ieri, però un allenatore alla fine è in qualche modo è la sintesi tecnica di quello che i giocatori danno, cioè alla fine è il responsabile unico e ultimo, nel senso che se i giocatori fanno outperform, come direbbe Barisoni, cioè riescono a fare meglio di quelle che sono le loro qualità teoriche, e l'allenatore è stato bravo. Se invece fanno underperform, sempre certo, Barisoni, allora l'allenatore delle responsabilità se le deve prendere. Mi sembra abbastanza scontato anche a me. Allora facciamo così, sentiamo qualcosa sul Napoli, poi ci fermiamo per il traffico, poi abbiamo un ospite oggi, molto difficile trovare voci napoletane che avessero voglia di farsi sentire. Abbiamo una nuova ospite dopo il traffico. Possibilità per uno contro uno, c'è Maggio su di lui, cross morbido, colo Pianca, palla in mezzo, deviazione, 1-0 Selesniov, 1-0 E corso senza guardare. Finisce qui, finisce malissimo per il Napoli, malissimo per il calcio italiano. È una festa per il Dnipro, che conquista la prima finale europea della sua storia. Tutti siamo dispiaciuti, credo che abbiamo avuto occasione per fare gol, per cambiare tutto, anche dopo guardando il gol che hanno fatto loro, un po' ancora dispiaciuto, però alla fine non possiamo cambiare niente. In due partite abbiamo avuto delle occasioni per fare la differenza, non l'abbiamo fatto e loro hanno lavorato bene, però credo che tante occasioni non si possono sbagliare. L'acqua tempo ne va, tanto l'aria salta cagnando. Tutti convocati. Tutti convocati. Era difficile trovare voci napoletane parlanti oggi, tutti senza voce o senza voglia? Ti presento una nuova amica, Anna Trieste. Ciao, buonasera. Ciao. Buon primo pomeriggio. Come male, va? Naturalmente male. Non vi posso dire bene, perché se vi dicessi bene direi una bugia. Diciamo male. Oggi siamo tutti senza bene. Ho letto i tweet, per chi non la conoscesse, Anna Trieste scrive sul Napolista, che sì. Che cos'è Napolista? È un blog collettivo che è una versione di allora è un giornale, un blog, insomma, di analisi e informazione politico-calcistica, che però da quando c'è Benitez, soprattutto quando il Napoli perde e o pareggia oppure vince ma con non sufficienti gol di scarto, diventa una specie di sfoga da solo Beghelli del tifoso del Napoli, che viene là è il muro del pianto, esatto, quindi noi cerchiamo, diciamo, di respingere, non di respingere ma di assorbire tutte queste lacrime napolitane senza fare una brutta fine. Senti, dovessi sceglierne uno oggi, Benitez o Higuain? Devo scegliere uno dei due, ma per fare cosa? Per farli mazzare chi dei due? No, per... no. Per il Napoli del futuro, dai. Ah, per il Napoli del futuro. Guarda, io ti dico Benitez, perché comunque nelle occasioni importanti Higuain ci ha sempre lasciato a perdere, ci ha sempre tradito. Quindi ti dico Benitez, mi fido più di lui che di Higuain, sicuramente. Pier, è la voce della rabbia. No, in assoluto è oggettivo, dai, Higuain ha completamente cantato questa sfida, cioè 27 gol stagionali. Ma non è l'unica, però, che tra l'altro stamattina parlavo con dei tifosi del Real, e loro mi dicevano ti stai pure, insomma, a sorprendere, lui manca sempre le occasioni importanti, poi vabbè è ritornato, diciamo, il discorso relativo alla finale mondiale, ma al di là di questo, anche col Napoli, le partite importanti, quelle in cui tu e a Fallommo, come diciamo noi a Napoli, Higuaín fa qualcos'altro che tutto è, ma sicuramente non quello. Sì, non è stato l'unico ieri a non capirci tanto, Pierluigi. No, però onestamente queste due partite, ma cioè non è una cosa che uno dice contro Higuaín, è una cosa che in qualche modo è un riconoscimento della forza di questo giocatore. Esatto. Che deve fare la differenza in due partite, esatto. Così ha fallito veramente troppe occasioni, però altre volte, per esempio penso alla Supercoppa, secondo me Higuaín invece nelle grandi partite si è esaltato, quindi non arriverei a questa. Ma quindi il Real Madrid allora tu ci devi spiegare questa cosa, che avete, io amo Napoli alla follia, ma avete questa capacità incredibile di cambiare gli accenti, il Real. Cavour invece che Cavour, no, una cosa che ma tu perché, cioè, questa è una cosa che noi facciamo affinché quelli che vengono da fuori Napoli, i cosiddetti forastieri, ce lo chiedano e noi offriamo una spiegazione che naturalmente non ha alcun senso, però ha creato un dibattito. Ho capito. Va bene. Quindi Benitez. No, Benitez è un Rafael, basta. E poi lui è l'unico che viene pronunciato correttamente. Ma voi siete ancora Rafaeliti, perché cioè voi fate parte, sì, del. Oltranza, proprio oltranza. Sì, certo, io sono Rafaelita sempre, a parte che è bello essere in generale tifosi, ma in particolare Rafaeliti solo quando, perché io infatti dico una cosa, no? Con Benitez noi abbiamo questo problema del fisico a fisarmonica, perché a Napoli, no? Quando perdiamo è il schiattone e quando invece vinciamo è robusto e costituzione, no? Ah, sì. Quindi quindi io mi pongo esattamente al di là, cioè dico che per me Benitez è un uomo bellissimo a prescindere, quindi il mio raffaelitismo viene intaccato dai risultati, io ho fiducia in quest'uomo. Grazie Anna, ci sentiamo presto. I tempi migliori, grandissima Anna Trieste, grazie. Pierluigi, io invece. Pure noi abbiamo il fisico a fisarmonica, cioè nei giorni parli tu, abbiamo il problema aperto. Ascolta, io voglio farti sentire una cosa e poi voglio un tuo commento. Perché ovviamente calcio aperta e ai biglietti della finale di Berlino. Quanti te ne hanno chiesti già? Di finale di biglietti per svariate cioè, decine, diciamo funzionari, direttori di filiale di banca, di persone, di amici e conoscenti, capito? Sì, so perfettamente, guarda, siamo sulla stessa barca, però sono introvabili anche i biglietti per Anfield Road domenica, quando Mr. Steven Gerrard, 708 partite, 17 anni con il Liverpool, alla fine saluterà la COP e tutto lo stadio. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. The end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song. Odio la melassa, però insomma, Pierluigi, lasciami in 30 secondi un cameo su Gerrard. Che grandissimo giocatore, un po' anarchico, ma clamorosamente British, forse il più inglese dei calciatori inglesi. Questa anarchia, questa esuberanza, questa voglia assoluta di dare un grandissimo contributo, questa pubblicità l'ha reso indimenticabile, e poi anche la fedeltà, che sappiamo bene comunque aggiunge sempre qualcosa in termini di romanticismo e letterarietà a certe carriere, da Giustanetti a Francesco Totti, da Alex Del Piero a Paolo Maldini, e ovviamente anche nel caso di Steven Gerrard, anche perché poi insomma si lega a un decennio abbondante, un ventennio di storia di un Liverpool sicuramente in difficoltà rispetto al passato. Insomma, questo rimane il club inglese più titolato, ma che negli ultimi vent'anni in campionato ha faticato tantissimo, ha ottenuto degli exploit abbastanza episodici eppure clamorosi, non è il caso di ricordarlo ovviamente ai milanisti, certo. Esatto, e però insomma grandissimo spirito, accento scouse, cioè assolutamente di Liverpool, quindi insomma chi è più anglofono può cogliere, alziamo, anche questo. Ci alziamo in piedi metaforicamente ad applaudire Steven Gerrard domenica contro Crystal Palace, ultima partita dopo 17 anni e 708 gare con i Reds. Grazie Pierino, buon lavoro, ciao, un abbraccio, ci sentiamo domenica naturalmente, adesso noi abbiamo Gerrard. Non si rendono conto che il tempo è finito, finisce qua primo tempo. Tutti convocati. Ricomincia. Tutti convocati. Tutti convocati anche Yaya da Torino, non è Touré credo, e Giorgio da Prato. Yaya, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ho detto giusto. Grazie per la trasmissione. Grazie. Più o meno, però va bene. Ah. E anche grande Pardo. Sì. Dire una cosa, ho sentito prima la dichiarazione di Sacchi. Sinceramente io sono un tifoso interista, sono, cioè, cittadinanza italiana, ma non sono di origine italiana. Però non può dire una cosa del genere sempre quel tasto lì, sempre lì, non va bene, perché io farei qualsiasi cosa se Inter tornasse nel 2010 e una squadra del genere, cioè cosa vuol dire avere tutti gli italiani? Se sono così bravi nei giovanili, possono andare in un altro paese, diventare grandi, come è andato, che sono venuti in Italia i brasiliani, gli argentini, gli altri. Ma io la penso più o meno allo stesso modo, Sam. Io la penso più o meno allo stesso modo, perché i giocatori li valutano non in base al passaporto, ma in base a quello che danno sul campo, mi interessa poco alla fine, al massimo livello professionistico, e questo vale per tutti gli sport, mi interessa poco se sono filippini, brasiliani, argentini, eccetera. Sì. Io quando vedo Albo, se quando Champions League ha vinto l'Inter FC Internazionale, guardo tre coppe campioni, non guardo chi o quanto c'era nel 68-67, guardi, però... del 68, non guardo chi l'ha vinto, guardo FC Internazionale. Poi Milano, Zanetti non era, non Zanetti, simbolo dell'interismo, non era certo nato a Parabiago, ma sono molti altri discorsi questi, sono discorsi che ci porterebbero lontano. Io mi limito a notare che le grandi squadre dinastiche del passato, mica tanto recente, o se vogliamo parlare del passato recente facciamolo pure che è più facile, le squadre che hanno costruito dinastie avevano ed hanno una ossatura di giocatori autoctoni, e questo è un dato di fatto. L'Inter in quel contesto rappresenta un'eccezione, il che non fa male a nessuno, voglio dire, non mi sento di condividere questa vergogna che Sacchi prova per l'Inter del triplete, sinceramente. Giorgio Prato, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao. A te. Fiorentina, la Fiorentina è più o meno questa, lo è storicamente e lo è nella contingenza di adesso, no? Di questo momento. E allora ci dobbiamo arrendere a questo 5-0? No, quarto, sesto posto, visto arrivare abbastanza in fondo alle coppe, ma non vince le mai. Qual è il problema? Il problema è che se tu vuoi fare l'ultimo salto di qualità, devi acquisire quei tre o quattro giocatori che abbiano personalità, soprattutto che abbiano una costanza di rendimento fisico e soprattutto mentale nell'arco di tutta la stagione. Quelli a noi mancano. Ci ho detto, io sono convinto che anche con questi giocatori che abbiamo adesso, la Fiorentina dell'ultimo, la Fiorentina non può essere quella che Montella ha messo in campo questo, l'ultimo mese e mezzo. È questo che io contesto. Cioè... Noi abbiamo preso tre gol sistematicamente da tutti, dal Cagliari, tutti. Cioè la Fiorentina è giusto che perda col Siviglia, ma non in questo modo. Esatto, la Fiorentina può perdere 2-1 e 1-1. Posso dire una cosa, Giorgio? Io non vedo una differenza di 5 gol tra la Juventus, tra la Fiorentina e Siviglia. Non esiste. Non esiste una differenza di questo tipo tra la Fiorentina e Siviglia, quindi è meglio andare a cercare le ragioni da altre parti. Io ho detto molte volte che a me, mi sono quasi stufato di dirlo, bisogna che mi invento un'altra espressione, però la Fiorentina mi sembra un po' una squadra femmina che quando arriva al dunque, raccogliamo qualcosa, lì si squaglia. E negli ultimi tempi abbiamo avuto diverse dimostrazioni di fatto. Quindi anche Montella, che ieri ha lasciato una sorta di testamento sportivo, non credo che verrà confermato la Fiorentina. Credo che anche Montella nella gestione di queste partite cruciali abbia un qualche tipo di responsabilità. Allora, io adesso voglio parlare di un'altra cosa. Voglio parlare con un grande campione che non è un calciatore, ma gioca a basket, e si chiama Alessandro Gentile, capitano dell'EA 7 Milano. Ciao Alessandro, grazie. Ciao, buongiorno. Ciao. E abbiamo anche in linea uno che credo tu conosca, almeno di sfuggita, The Voice, sì. Jerry De Rosa. Ciao Jerry. Ciao Carlo. Ciao, come stai? Ciao Carlo, ciao Alessandro. Bene, ciao, bene, ciao, tutto ciao. Bene. Ale, una vita da favoriti, almeno nel campionato italiano, come si gestisce sta roba? Diciamo che ne siamo abituati, come hai detto tu, e ogni anno si parte con Milano che è sempre la favorita, quindi niente di nuovo, quindi abbiamo imparato come gestire, diciamo, questa pressione, tra virgolette. Senza rifiutare il ruolo, perché mi sembra abbastanza impossibile. No, assolutamente, però penso che chi gioca, chi vive di questo sport sa che niente è scontato, e sicuramente ci sta a dire che Milano è la squadra favorita, però abbiamo già visto come i playoff possono riservare insidie per qualunque squadra. Jerry, che hai raccontato e racconterai il gran finale dell'Eurolega. Milano in Eurolega, ammettiamolo, anche con Alessandro Gentile presente, sotto il par quest'anno. Sì, direi di sicuramente meno bene dell'anno scorso, i risultati sono lì a dirlo, ma secondo me il dato più significativo è i risultati di Milano contro le 8 squadre che hanno fatto i quarti di finale. Ha vinto una partita sola contro il Panathinaikos. Sicuramente Milano non aveva la consistenza dell'anno scorso, ma va sottolineato il fatto che le grandi si sono rinforzate, quelle che sono qua a Madrid, le 4 che sono a Madrid, sono tutte e quattro più forti rispetto al livello più alto dell'anno scorso. In questo, diciamo che il gap si è un po' allargato anche per merito delle altre squadre che si sono rinforzate moltissimo. Condivide Alessandro, vuoi aggiungere qualcosa? Ma sicuramente c'è poco da aggiungere, ha detto quasi tutto Jerry. Sicuramente quello che mi sento di dire è che abbiamo fallito, diciamo così, l'appuntamento con le top 16 dall'inizio, mancando un po' soprattutto di aggressività e di avere un buon atteggiamento, diciamo, subito all'inizio delle top 16, e questo penso che ci abbia un po' penalizzato poi con lungo andare, perché penso che abbiamo fatto alla fine un ottimo girone di ritorno di top 16, mentre all'inizio abbiamo fatto veramente tanta fatica. Senti, brutalmente, vai o resti? Vai in America o stai qui? Molto presto ancora. Io ho ancora 2 anni di contratto con Milano e in questo momento sono felice di essere un giocatore dell'Olimpia Milano. Cosa consiglieresti ad Alessandro, Jerry? Io egoisticamente di stare qui. Sì, anch'io. Tanto così ci ascoltiamo più da vicino, no, ma a parte tutto, Alessandro sa molto bene, sa gestire molto bene la sua carriera, è lui che capisce se è pronto o meno per quel salto. Sicuramente Alessandro lo saprà benissimo, l'NBA è abbastanza un affascinante tuffo, ma un po' nel buio, perché l'ambiente, le esigenze dello staff tecnico possono essere anche diverse a quelle a cui è abituato Alessandro, però mi sembra che, insomma, Alessandro sia sufficientemente con le spalle forti per poter sopportare anche questo. Io ripeto, io fossi lui, per fare un gesto nei miei confronti starei qui. fai sto regalo a Jerry De Rosa, fagli sto regalo, ma non solo a lui. Senti, invece Ale, prima di salutarti, Final Four di Eurolega, Cesca secondo me è favorito, il Real gioca in casa, magari sarà anche Florentino Perez imbufalito in tribuna ancora con la sconfitta delle merengues negli occhi, esatto, la leggi così o immagini qualcosa di diverso? Ma io innanzitutto penso che una Final Four sia sempre un terno al lotto, perché non c'è una vera squadra favorita, tutto può succedere, sono quattro squadre fantastiche e penso che sicuramente il CSKA è la squadra che ha dimostrato di avere qualcosa in più durante tutto l'anno, però penso anche che giocare contro l'Olympiacos non sia per niente facile, contro giocatori così esperti, così abituati a giocare quel tipo di partite. E invece per quanto riguarda il Real Madrid sicuramente ha qualcosa in più dal punto di vista del talento, ma penso che quando giochi contro una squadra di Obradovic hai poco da star tranquillo, insomma. Quindi saranno veramente due partite secondo me molto molto equilibrate, che saranno decise da piccoli dettagli alla fine. Grazie Ale, bocca al lupo. Prego, grazie, ci sentiamo. Grazie a voi. Grazie Alessandro Dottini, ci sentiamo a playoff in corso. Jerry, sì? La vedi allo stesso modo? Sì, guarda. O ti aspetti, il sorpresone della semifinale? Il sorpresone è dietro l'angolo, anche perché come nel 2013-2012 l'Olympiacos è la squadra meno accreditata e nel 2012-2013 ha vinto, tra l'altro sistemando sempre il CSKA che era favorito anche in quegli anni lì. Secondo me c'è grandissimo equilibrio, se tutte e quattro giocano al loro meglio la più forte è il CSKA secondo me, ma deve giocare al suo meglio, se no può succedere veramente di tutto. Ieri la faccia in conferenza stampa di Pablo Laso era di quello che era triste perché il Real era stato eliminato nel calcio, sia perché deve fare il tifoso del Real anche se è basco, ma soprattutto perché adesso la pressione credo che ce ne abbia un po' addosso di lui. È vero che avrà 10.000 tifosi per lui, ma è altrettanto vero che ha perso le ultime due finali e se sei l'allenatore del Real non puoi perdere tre finali consecutive. Poi paradossalmente davvero credo che la sconfitta del, sai, per come è strutturato Real Madrid, credo che davvero che la sconfitta del Real di Ancelotti abbia aumentato la pressione su questa squadra, abbia aumentato notevolmente la pressione su questa squadra. Non c'è dubbio, e poi dall'altra parte c'è Obradovic, maestro nell'infilarsi in queste pieghe, sarà veramente una battaglia psicologica. Se Fenerbahce è una squadra inesperta a livello di Final Four, di fatto solo Zizis l'ha fatta, c'è anche Veselim l'ha fatta relativamente, però ha questo maestro invece di partite di questo tipo in panchina. E dall'altra parte c'è una squadra che deve capire se il pubblico, se lo fate giocare in casa, sarà un vantaggio, se invece la pressione sarà insostenibile. Questo lo capiremo durante la partita. Fenerbahce è la squadra più cresciuta, credo, di questa Eurolega nel confronto con la stagione scorsa. Non c'è dubbio, hanno investito tantissimo e secondo me hanno quest'arma illegale che sono i due lunghi, che sono Bielitz e Veseli, sono due lunghi atipici, tutti e due 2,10 m, se non di più, in grado di giocare in difesa marcando il centro, in attacco giocare da ala e rendendo la vita impossibile ai centri che marcano loro. E in più ci sono tanti giocatori che possono decidere la partita, Maurizio Gherardini che è il GM del Fenerbahce insieme ad Obradovic ha fatto un grande lavoro e sono molto pericolosi, anche poi hanno dietro una nazione, insomma in Turchia si aspettano, è la squadra turca che è arrivata più in alto in ogni sport, è vero, l'Efes ha vinto 20 anni fa la Coppa Korać, ma insomma la Final Four è un'altra cosa e anche questo si farà sentire. Sì. Grazie Jerry, buon lavoro. Grazie a voi. Un abbraccio. Ciao Jerry De Rosa, buon lavoro per le Final Four di Eurolega a partire da oggi. Andiamo a giro? Sì. Vediamo. Attenzione, adesso Greipel in seconda posizione, che è già in la posizione di sparo. Attenzione, però ancora Tombone, non anche è partito, Francesco. C'è anche Tombone, sì, nelle prime posizioni. Alla la ruota sfida di Greipel adesso tra la Lotto e tra la Lampremerida ancora, però non è partito lo sprint con Greipel che è in seconda posizione. C'è una caduta intorno alla trentesima posizione, parte adesso Greipel lo sprint con Greipel che è in prima posizione. Sascha Modolo la sua ruota, ma è nettamente davanti Andrei Greipel. Matteo la Pelucchi. Vittoria del tedesco sul traguardo di Castiglione della Pescaia davanti a Pelucchi, dunque il favorito, una volata letteralmente dominata da André Greipel. Pier Augusto Stasi, buongiorno. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Raipel vince in volata. La notizia è che Contador oggi è partito con la maglia rosa addosso e un sacco di botte. Ogni giorno siamo, capita, però siamo qui a raccontare con dinamiche diverse delle cadute da paura. Sì, dinamiche diverse, però c'è una costante. Sì, due volate a Genova e ieri in due occasioni c'è stata a provocare questa caduta è stato il pubblico, purtroppo, comunque sì. Dei tifosi presunti tali che si fanno prendere la mano e non so che cos'altro, più essere misurato. A Genova, a 10 km dal traguardo, c'è stato un ciclista che ha pensato bene con la sua bicicletta a scatto fisso di buttarsi in mezzo al gruppo perché voleva pedalare in mezzo al gruppo, cioè che è come la cosa normalissima, domani mattina o comunque la prossima finale di Champions League. Andiamo in campo, volete, saltiamo poi, in campo. Esatto, poi magari puoi togliere il pallone a Messi se ci riesci. E invece ieri un incauto fotografo improvvisato probabilmente, che voleva scattare una fotografia quindi non guardava neanche la volata, ha preso letteralmente Daniele Colli, che questa mattina ho sentito dall'ospedale poco prima che fosse sottoposto a intervento chirurgico per la riduzione della frattura scomposta dell'omero, e mi ha raccontato, cioè, avevo visto a un metro, ho cercato di abbassarmi, ma ho preso in pieno, lui è convinto di essersi rotto il braccio proprio per l'impatto a 65 all'ora contro il teleobiettivo di questa macchina fotografica. Parlando con il CT Davide Cassani sono assolutamente d'accordo, non serve tirare su le barriere, serve buon senso, cultura sportiva, attenzione, usare il cervello, perché come si fa a pensare di stare a bordo strada in piena volata e mettersi con la testa al di là delle transenne, però ci potrebbe essere un accorgimento tecnico, ci sono delle transenne oblique che non consentono proprio allo spettatore di sporgere. Sì. E questo potrebbe essere qualcosa bisogna fare. E poi anche un passaggio regolamentare fondamentale. Oggi cosa dice il regolamento? A 3 chilometri in caso di foratura o caduta viene considerato un guasto tecnico e quindi gli uomini di classifica arrivano col tempo del vincitore. Certo. Ecco, in questo caso bisognerebbe allargare e dire a 3 chilometri in una tappa come quella di ieri, che sostanzialmente vale solo per i velocisti, a 3 chilometri il tempo viene dato del vincitore a tutti. Cosa succede? Che in quel caso lì il buon Contador, Rigoberto Urana, il nostro Fabio Aru, cioè gli uomini di classifica che devono lottare per 3 settimane per la maglia rosa, si possono anche un attimino sfilare, lasciar fare la volata tranquillamente senza rischiare la vita, e sarebbe, toglieremo gran parte dei problemi, perché Contador in quella posizione non doveva esserci, era troppo avanti, ma in ogni caso comunque è stato una fatalità, perché Collier addirittura sul lato di sinistra è caduto, lui ha provocato proprio una caduta a catena, effetto domino, e Contador era esattamente dall'altra parte, come sta Contador? Perché è partito, guarda, ieri l'abbiamo visto ritirare, non è riuscito neanche a infilarsi la maglia rosa, l'ha presa in mano, sì. È partito, ma come sta? È partito, sembra che stia piuttosto bene. Giacinto Vidarte, che è il suo addetto stampa personale, mi ha detto anche che l'ha visto saltellare sui pedali, quindi provare anche a forzare la spalla sul manubrio. Certo che oggi la tappa è lunga perché sono 270 km di corsa, quello che preoccupa è domani, perché domani si va a Campitello Matese, certo. Domani è una tappa comunque a 4 stelle, quindi un arrivo in salita. E in bicicletta non si pedala solo con le gambe, ma si pedala anche con le spalle, con le braccia, cioè ci si aiuta e si tira sul manubrio. Sì, e quando tu hai una spalla, sublussazione alla spalla, non è una cosa semplice. No, poi è anche vero che questi sono fakiri e Contador lo è ancora di più, lui pur di restare le proverà tutte, certo che è un peccato, è certo un peccato che siamo all'inizio del giro e anche lui dovrà fare due conti sulle capacità di recupero da qui alla fine. Grazie Pier, esatto. Sentiamo dopo. Grazie a voi, ciao. Buon pomeriggio. Ciao Pier Augusto Stagi, nei GR serali resoconto della tappa di oggi e domani mattina lo speciale dopo il GR delle 7 sul Giro d'Italia. Diego da Treviso, buongiorno. Sì, ciao. Ultimo minuto, dica. Volevo fare un'osservazione sulla vergogna di Sacchi, sì, per l'Inter del 2010. Vergogna è una parola un po' grossa. E a noi tifosi non interessa relativamente se ci sono i giocatori italiani o no, anche perché quando tu hai quei giocatori lì, non è che erano dei veri professionisti, dei guerrieri, e quindi non credo che si possa parlare di vergogna, insomma, ecco, vergogna è una parola un po'. Vergogna, sì, non la condivido nemmeno per altre cose, non per queste. Bravo, qua, non la condivido. Guardi, se devo spendere la parola vergogna, la spendo per quello che è successo in Argentina nel superclassico Boca River Plate, ritorno degli ottavi di Libertadores. Avrete letto, partita sospesa all'intervallo dopo che nel tunnel che riportava le squadre in campo i giocatori del River si sono visti piovere bombe urticanti e ne sono usciti malconci. Quindi se devo spendere la parola vergogna, la spendo per altre ragioni, non per ragioni di passaporti regolari sulla base di norme di norme codificate per i giocatori che vanno in campo. Grazie, ci vediamo. Sentiamo domenica. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia. E un abbraccio a Daniele Buonamici in redazione. Ti aspettiamo presto e sempre. Pochi secondi ormai. Si aspetta solo il fischio finale. Eccolo!